denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. E no, 1.000 euro al mese Renzi non ce l'ha fatta a metterli in tasca, nella busta paga di molti lavoratori italiani. Sarebbero stati decisamente troppi per le casse dello Stato. Per il momento ci saranno gli 80 euro promessi dal governo. 80 euro che proprio in questi giorni qualcuno avrà trovato in busta paga. Sappiamo quanti problemi però ci sono e restano nelle famiglie italiane per arrivare a fine mese. La prima domanda voglio subito farvela però. Avete controllato il cedolino dello stipendio? Ci sono gli 80 euro più o meno? Ce lo raccontate all'800 24 00 24? Ci raccontate cosa ci farete, visto che saranno strutturali da qui alla fine dell'anno e alla fine faranno circa 600 euro, insomma, per cui una bella cifretta con la quale magari ripianare qualche debito fatto in passato. A proposito di debiti e di indebitamento degli italiani, lo ha confermato anche l'ultimo rapporto annuale dell'Istat, che ha fotografato, come sempre fa, lo stato di salute del paese. Fra i dati c'è anche il crescente ricorso all'indebitamento. Indebitamento. Nel 2012 le famiglie indebitate superano quota 7%. Però ecco, l'indebitamento in realtà qualcuno contesta, e qualcuno che è nostro ospite poi lo sentiremo, che questo è un termine che ha un'accezione negativa, però tutto sommato è un fenomeno complesso. Cosa significa indebitarsi? Non per forza questa parola si deve abbinare ad una situazione senza uscita. Chiedere un prestito, progettandolo correttamente in modo sostenibile, può essere anche il modo per superare un momento di difficoltà e a volte anche togliersi uno sfizio, farsi un regalo, regalarsi qualcosa di bello. Bisogna comunque scegliere gli strumenti giusti, le cifre giuste, i tempi giusti. Cerchiamo di parlarne oggi a Cuore e Denari, lo facciamo con una puntata interamente dedicata a questo tema che affronteremo da tanti punti di vista. 800 24 00 24, l'ultimo prestito che avete chiesto, per che cosa vi è servito, per una piccola ristrutturazione della casa, per andare appunto dal dentista, perché molti italiani si indebitano anche per sostenere le spese mediche, spesso impreviste e spesso anche molto importanti, basti pensare appunto al citato dentista di prima. Salutiamo gli ospiti che sono collegati con noi questa mattina. Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum e grande esperto di diritti dei consumatori. Picciolini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Peraltro comincio già a ringraziare fin da ora tutti gli ospiti che sentiremo in diretta, a cui ho rovinato per metà la vacanza, per cui oggi ringraziamenti doppi e tripli, direi. Lorenzo Bacca, responsabile Business Unit Prodotti Finanziari di Facile.it, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie anche a lei della sua disponibilità, così come altrettanto rivolgo lo stesso ringraziamento a Fabio Pieri, responsabile valutazione e concessione di BL Banca. Buongiorno dottor Pieri. Buongiorno a tutti. Allora, ribadisco il numero verde per gli ascoltatori, anche se oggi è il 2 giugno e siete a casa tranquilli, magari se volete condividere con noi il vostro pensiero sul tema del prestito, perché cosa lo avete chiesto, se vi è capitato di farlo, che condizioni avete trovato, vi siete tolti uno sfizio o vi siete tolti un problema. Il numero verde lo conoscete, potete anche scriverci al 349-238-6666 se volete utilizzare la modalità messaggi. Abbiamo i social network, potete andare su Facebook, potete andare su Twitter, al limite se avete un caso un po' più articolato potete utilizzare il nostro indirizzo di posta, che è cuoredenari@radio24.it. Vogliamo però iniziare questa trasmissione, come ci è capitato anche spesso di fare, vogliamo iniziare questa trasmissione con un'ascoltatrice che ci aveva scritto qualche tempo fa raccontandoci la sua esperienza con un tipo particolare di prestito, la cessione del quinto della pensione nel suo caso appunto. In realtà conosciamo sia la cessione del quinto della pensione sia la cessione del quinto dello stipendio. In questo caso Laura chiedeva la cessione del quinto della pensione. La salutiamo, buongiorno Laura e grazie di essere anche lei a nostra disposizione oggi in questa giornata di festa. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, ci ricorda che cosa le è successo e quali sono i dubbi che le aveva generato, insomma, questa richiesta. Lei è andata intanto, senza citarla, in una banca, no? Che eroga un prestito di questo tipo. Allora, io ho telefonato a questa banca per prendere un appuntamento pensando di dover avere il rapporto solo con la banca. Invece la banca mi ha detto che dovevo rivolgermi personalmente all'INPS e fare una domanda all'INPS. Questo in passato non era così, in passato c'era tutto un rapporto telematico fra INPS e banca, purtroppo questo adesso non c'è più. Quindi io il 6 marzo sono andata a Linz, ho compilato la domanda e l'ho lasciata lì in attesa di risposta. Il 29 marzo mi è arrivata dall'INPS la risposta con il benestare a proseguire nell'operazione e con l'indicazione di quello che sarebbe stata la rata massima, cioè il quinto della mia pensione. In realtà io ho chiesto molto meno, ho chiesto circa il nono. Subito, cioè il 1 aprile, sono andata in banca e ho consegnato l'originale di questo benestare alla banca. E ho negoziato il finanziamento, ho firmato il contratto, si tratta di 5.000 euro. La banca mi ha informato che la procedura sarebbe stata lunga in quanto basata su rapporti cartacei, ma non immaginavo talmente tanto. Anche la banca ha fatto la sua parte, perché io ho consegnato la lettera di benestare dell'INPS il 1 aprile e la banca ha spedito la documentazione, che probabilmente è il contratto di finanziamento, certo, all'INPS, con raccomandata il 2 maggio, quindi anche qui è passato un altro mese. Allora, Laura, adesso lei i soldi li ha ricevuti? Ha cominciato? No. Non ancora, no. Quindi tutto no, questo no, è un baradano. No, non è mica finita. No, non li ho ricevuti. Dovrei in teoria ricevere questa settimana. Domanda, praticamente lei ha ipotizzato di chiedere questi soldi, diciamo a febbraio? Il 6 marzo ho consegnato la domanda. Però ecco, l'idea le era venuta un po' prima, quindi ammettendo che tutto nella sua testa sia maturato in febbraio, è partita la domanda il 6 marzo, siamo al 2 giugno, lei ancora questi 5.000 euro non li ha avuti. Esatto. E non stiamo parlando di una cifra, come dire, improbabile. Esatto. Ecco qua, quindi in sostanza, Laura, se lei volesse chiedere agli operatori del settore qualche spiegazione su tutto questo... Mi scusi, volevo dire un'altra cosa. Io aspettavo dall'INPS un'ulteriore risposta dopo che la banca ha mandato questa documentazione. Ho chiesto all'INPS, anzi sono andata personalmente, perché per telefono non si può fare assolutamente niente, sono andata personalmente, mi hanno detto che l'INPS aveva 30 giorni per rispondere. Quindi passati 30 giorni, in effetti io il 29 maggio ho ricevuto dall'INPS questa risposta, diciamo l'accettazione del contratto, certo, e ho dovuto portarla in banca, ecco, io. Nell'era digitale e telematica, Laura, in sostanza lei deve ogni volta spostarsi appunto e trasferire questi documenti. Io per adesso la ringrazio di questa sua testimonianza. Volevo subito sentire Fabio Picciolini, che è un grande esperto di questi argomenti. Abbiamo fatto tante trasmissioni in passato sulle famiglie che non riescono più a rispettare questo impegno finanziario mensile. Abbiamo ricordato anche tante volte, Picciolini, in passato, come nell'epoca, come dire, nel momento boom del mercato immobiliare, andare in banca e prendere 200.000 euro, 300.000 euro per farsi la casa, come dire, bastava un mese, no? In questo caso, per 5.000 euro, questa signora è partita il 6 marzo e ancora non li ha ricevuti. Non so se sia un bene o un male che ci siano tutti questi controlli affinché chiaramente le famiglie non si vadano ad indebitare oltre il dovuto. Le chiedo però subito un giudizio su questo meccanismo così complesso. No, la sessione del quinto non è così complessa, purtroppo la signora è stata sfortunata, non so in quale istituto si è rivolto, se una banca, una società finanziaria o dove, perché con 3 mesi sono veramente un periodo troppo lungo. Peraltro i controlli sono giusti e sicuramente avranno fatto un controllo per vedere appunto se la signora era troppo indebitata o si sarebbe troppo indebitata, cosa che peraltro non credo, considero che ha chiesto 5.000 euro, insomma, quindi a meno che non abbia una pensione molto bassa, credo che 5.000 euro siano sopportabili. Certo, e quindi in sostanza lei dice che è stata un'eccezione, mediamente non ci vuole così tanto. Lo chiediamo direttamente agli operatori del settore. Fabio Pieri, IBL Banca, è una società leader nell'erogazione di finanziamenti di questo tipo. Chiedo anche a lei un giudizio e le chiedo anche un po' di raccontarci dal vostro punto di vista qual è l'andamento del mercato. Sono molti pensionati che chiedono un prestito di questo tipo, che teoricamente, proprio per il fatto che esiste come dire, il prelievo diretto dalla pensione, dovrebbe teoricamente essere un po' più facile, no? da ottenere, perché c'è la garanzia della pensione. Pieri. Allora, una volta ottenuto sicuramente è facile, in quanto, come appena detto, la rata mensile viene pagata direttamente dall'ente previdenziale. Il problema, come nel caso della nostra ascoltatrice, è stato ottenerlo, anzi ancora evidentemente deve riuscirci. Ecco, in linea teorica sì, sono tanti i pensionati che fanno ricorso a questo strumento finanziario. Non dimentichiamoci che la diffusione soltanto negli ultimi anni la legge, perché la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è un prodotto interamente disciplinato dalla normativa. Pieri, mi scusi se la interrompo, sta utilizzando per caso un auricolare o qualcosa? Perché non la sentiamo in maniera ottimale. Prego, allora adesso ecco, forse un pochino meglio, quindi io sto in religioso silenzio e così la sentiamo bene, grazie. Quindi la tendenza qual è? La tendenza appunto è che negli ultimi anni la normativa ha aperto cessione del quinto ai pensionati, perché prima questa categoria era esclusa. La cessione del quinto è un prodotto tra l'altro interamente disciplinato dalla normativa, una normativa che risale addirittura al 1950. Ora, le disavventure della nostra ascoltatrice sono tra virgolette giustificate dalla complessità del prodotto, che però non deve ricadere a svantaggio appunto del fruitore, del consumatore. Anche voi fate fare tutta questa trafila, nel senso che chiedete direttamente all'interlocutore? Noi siamo direttamente collegati con l'ente previdenziale, ecco. Un sistema automatizzato che consente di ottenere in pochi secondi, se vogliamo. Quindi siete voi che dialogate con l'INPS? Siamo noi che dialoghiamo con l'INPS, siamo in convenzione, e il dialogo non solo porta a dei vantaggi in termini di celerità, ma anche in termini di tasso, in quanto l'INPS giustamente pretende, e noi abbiamo accordato appunto questa necessità, che al cliente vengano presentati dei tassi che non possono superare determinate aliquote percentuali. È vero che il prodotto cessione del quinto è complicato. Pensate che possono concorrere fino a 6 attori per perfezionare il prodotto. Sicuramente il cliente e la banca, ma anche un eventuale intermediario del credito, certo. L'amministrazione del cliente, l'ente previdenziale nel caso della nostra ascoltatrice, ma anche il tribunale per la notifica del contratto di finanziamento, va notificato per legge il contratto di finanziamento, e infine, non ultima, la compagnia assicurativa, che legge questo prodotto finanziario. Certo. Anche per un importo di 5.000 euro, Pieri, è necessario che un'assicurazione vada a proteggere tutta l'operazione? Sì. Lo prevede la legge, lo prevede la norma. Capisco. Non va bene. Senta, invece nel caso vostro, naturalmente nel migliore dei mondi possibile, un contratto di finanziamento da 5.000 euro entro quanto si finalizza? Guardi, l'importo diciamo è abbastanza relativo, ovviamente parliamo di importi medi, quindi 5.000 euro, 10, 15 o 20.000 euro, in linea teorica in 10 giorni, massimo 15, per un pensionato riusciamo a erogarlo. Benissimo. Pensionato INPS. Certo. Questa connessione. Poi ci spiegherà naturalmente anche la cessione del quinto dello stipendio, se ha lo stesso, come dire, modus operandi. Volevo andare ad un altro osservatorio, che è quello di facile.it, che, come dire, Lorenzo Bacca, possiamo un po' definirlo un comparatore di offerte, visto che ce ne sono tanti adesso sul mercato di questi strumenti di comparazione di prestiti e non solo, e voi avete rilevato dal vostro osservatorio, che ricordiamolo non è completo, è parziale, perché avete monitorato, no, le richieste di finanziamento che transitano dal vostro portale, vi risulta che siano in aumento le richieste di cessione del quinto, della pensione e dello stipendio, di entrambe le soluzioni, Bacca? Sì, certo, abbiamo osservato il trend delle ultime richieste ricevute negli ultimi 6 mesi, quindi stiamo parlando di oltre 40.000 richieste di finanziamento pervenute sui nostri siti facile.it e prestiti.it. E abbiamo notato come la cessione del quinto, sia dello stipendio sia sulla pensione, sia leggermente aumentato in termini percentuali sul totale dei finanziamenti richiesti. Quindi negli ultimi 6 mesi rappresenta oltre un quarto, quindi oltre il 25%, in particolar modo 26,8% del totale delle richieste pervenute di finanziamento sui nostri siti. Mentre 2 anni fa abbiamo condotto la stessa osservazione e rappresentavano circa il 16,5% del totale delle certo. richieste. Che importi medi vengono richiesti? Più uomini, più donne, a livello geografico da dove arrivano prevalentemente? Allora, l'importo medio richiesto oggi rappresenta circa 17.000 euro, mentre 2 anni fa nell'osservazione era 20.000 euro, quindi c'è stato un lieve calo. Per quanto riguarda l'età media, siamo intorno ai 43-44 anni ed è rimasta stabile rispetto all'osservazione precedente. E ovviamente chi fa le maggiori richieste sono ovviamente gli uomini, che rappresentano circa i tre quarti del bacino. Chiaramente, non essendo un prestito per definizione finalizzato, non sapete a che cosa servono questi soldi, se servono per ristrutturare una casa, per aiutare la famiglia, per sostenere delle spese mediche, come dicevo prima, non necessariamente appunto le persone che fanno questa richiesta devono spiegarlo. Assolutamente no, in effetti un prestito assolutamente non finalizzato, quindi può essere utilizzato per vari disparati motivi. Certo, allora grazie a Lorenzo Bacca per averci dato queste osservazioni. Direi di dare subito la parola ai nostri ascoltatori. All'800 24 00 24 abbiamo Claudio dalla provincia di Milano e Giovanni dalla provincia di Pavia. Vorrei cominciare con Claudio, che ci racconta le ragioni per cui ha chiesto una serie di prestiti, come sta andando, se ci sono stati, ma naturalmente gli auguriamo di no, momenti di difficoltà e come li ha gestiti. Claudio, buongiorno. Buongiorno. No, volevo dire che in effetti ero d'accordo con quella ipotesi che faceva lei, che talvolta i prestiti sono fatti per risolvere qualche problema senza andare in difficoltà, per cui per esempio ne ho chiesto uno per l'acquisto della casa, che non era eccessivo, però era un prestito per l'acquisto della casa. Quindi non era un mutuo, evidentemente. No, non era un mutuo. Ma non le conveniva chiedere un mutuo che magari dal punto di vista degli interessi costava un po' meno? Credo che era un prestito. È vero, ha ragione, però il mutuo l'avevo già chiesto alla mia ditta, che era un mutuo ipotecario. Ho capito. Quindi non ne potevo, quindi fare le serviva lì un po' di liquidità per aggiungere un po'. Sì. Ecco, e poi questo un altro mutuo l'ho fatto per sistemare un bagno e un tinello, quindi per fare dei lavori intorno a 18.000 euro. E poi un altro mutuo l'ho fatto ancora adesso per sposare la figlia, diciamo. E quindi rimanendo però in quella forbice, diciamo al di sotto comunque del 30% complessivamente, delle sue entrate, certo, delle mie entrate, perché ad occhio così, Claudio, non sono pochi. Quindi naturalmente lei però dice: io ho tenuto sotto controllo e non mi sono indebitato per oltre il 30% del reddito che mi entra, diciamo, in casa. Ho finito uno, ne ho fatto un altro, Per esempio ultimamente, diciamo, sta finendo l'ultima rata a luglio, cioè a giugno di quest'anno, di un prestito, e ne è partito un altro con più o meno la stessa rata, certo, che è già stata, diciamo, verificata, sopportabile. Ecco, e come, Claudio, tra l'altro, adesso per molti avere una sola rata è un peso insopportabile, no? Per qualcuno proprio il tema del debito è insostenibile nella propria vita. Vedo che lei invece molto razionalmente ci dice: no, io, come dire, pur di non tirar fuori tutto in una volta, ho spalmato queste spese nel tempo, per cui mi sento sereno, almeno così mi sembra di capire. Claudio. No, perché se uno non li ha subito, tutti, anche se fossero 15.000 euro, ma uno non li ha, non c'ha molte vie. L'unica via è quella di fare un prestito con una rata che nel tempo sia ragionevole per... uno deve valutare quanto è in grado di... Grazie Claudio per la sua testimonianza. Fabio Picciolini, e magari di storie così ne avessimo potute sentire tante nel passato, no? Invece per qualcuno la via dell'indebitamento è obbligatoria, perché non ci si arriva a fare tutto quello che si deve fare, a sostenere tutte le spese che si devono sostenere, però poi in realtà tenerle così sotto stretto controllo, come riesce a fare Claudio, non è facile per tutti. No, dunque il signor Claudio ha fatto una cosa estremamente giusta, che è quella di avere un indebitamento non superiore al 30-32%, 28%, perché quella è la fascia media che anche il sistema bancario, a cui arriva il sistema bancario, quindi ha fatto benissimo, è stato molto, molto bravo. Non sono molto convinto del fatto di fare tre prestiti diversi, perché ho sentito peraltro che un prestito ipotecario l'ha fatto con la sua ditta. Io credo che se faceva un unico prestito, magari con una lunghezza un po' più lunga, forse poteva pagare qualcosa di più. Diciamo che chi è che poi, ecco, non riesce effettivamente, qualche volta consolida, certo, di tre ne fa uno, allunga, esatto, e la rata diventa. Esatto. Benissimo. Allora, volevo sentire adesso, non so che ore siano, sono le 11 e... 26, quindi ancora un paio di minuti prima della borsa me li prendo, perché volevo sentire Giovanni dalla provincia di Pavia che chiede l'ABC della cessione del quinto, per cui chiedo ancora gentilmente a Fabio Pieri, se ha qualche minuto di tempo così completo, di rovinargli questa mezza giornata di vacanza. Appunto, volevo sentire Giovanni, a cui risponderemo credo a questo punto dopo la borsa. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Senta, volevo capire, per la cessione del quinto della pensione del mio papà, no? Sì. Niente, io volevo sapere se gli interessi bisogna pagare all'INPS o alla banca che si chiede il finanziamento. Io quello voglio capire. Giovanni, spero che non si riprenda l'INPS. Pieri, ci mancherebbe pure che il finanziamento lo fate voi e poi gli interessi vadano all'istituto di previdenza. Qual è il ruolo, appunto? Magari spieghiamolo a chi ancora non ha capito il meccanismo di un prestito di questo tipo. Il ruolo dell'INPS è quello di fare da garante, cioè praticamente lui da lì si preleva direttamente la rata, quindi non deve essere il sottoscrittore che direttamente ogni mese paga il bollettino, no? Quindi c'è questa forma di garanzia in sostanza per l'istituto che eroga. Certamente, gli interessi sono dovuti alla banca piuttosto che all'istituto finanziario che eroga. Il ruolo dell'ente di previdenza, l'INPS in questo caso, è quello di prelevare facilmente dalla pensione fino a un quinto dello stipendio, perché si parla del quinto dello stipendio o della pensione come in questo caso, però non è detto che la rata debba necessariamente arrivare al 20% della pensione. È il massimo, superiore. Diciamo. Mm. L'INPS, tra l'altro, ha un altro ruolo fondamentale, che è quello di rilasciare la documentazione necessaria al perfezionamento dell'operazione. La signora parlava di benestare. Il benestare è il suggello che l'ente appone al prestito, dove dice sì, d'accordo, abbiamo ricevuto il contratto e conseguentemente da una certa data in poi applicheremo la ritenuta mensile. L'altro documento che la signora ha dovuto procacciare direttamente all'ente è la comunicazione di cedibilità, ovvero quel documento che attesta che il quinto della pensione massimo, prelevabile quindi mensilmente, è quella cifra lì. Quindi servono almeno due documenti. Il primo è la comunicazione di cedibilità, dove appunto l'ente attesta il massimo della rata prelevabile. E il secondo è il benestare, che dopo la notifica del contratto l'INPS rilascia dicendo all'istituto mutuante inizieremo a prelevare da. E con quel documento alla mano, che la signora ha dovuto reperire direttamente e che noi invece in via alle banche reperiamo direttamente al sistema, una volta che la banca ne entra in possesso, eroga finalmente il finanziamento. Certo, senta Pieri, per dare un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori, c'è Giuliana per esempio da Legnano che voleva intervenire, adesso non so se ci riusciamo, comunque un prestito di questo tipo lo ha chiesto alla sua banca, lo ha ottenuto in 15 giorni, 5.000 euro in questo caso, mentre appunto eravamo partiti da una situazione che era stata più tortuosa e più problematica. A chi va assolutamente sconsigliato, ce lo dica con totale buonsenso, un prestito di questo tipo? A chi non lo erogate nella maniera appunto più radicale? Ma, diciamo che noi non abbiamo, diciamo, preclusioni di norma. È ovvio che se vediamo che le necessità del richiedente il finanziamento non collimano con la particolare forma finanziamento che noi proponiamo, è evidente che sono sconsigliabili. Ad esempio, tornando all'ascoltatore di prima, è ovvio che se uno ha bisogno di un mutuo, perché deve comunque perfezionare l'acquisto di una casa, sicuramente la cessione del quinto non è lo strumento finanziario più adatto, quindi certo. È evidente. Senta, le faccio un'ultima domanda. C'è larga convinzione del fatto che questo sia un prestito più oneroso rispetto agli altri in quanto a tassi di interesse appunto da riconoscere alla finanziaria che eroga. È così? Perché c'è questa convinzione? Beh, allora, è vero, c'è questa convinzione che io sconfesso dati alla mano, però non posso negare che estrapolando alcuni esempi, alcuni finanziamenti sono stati particolarmente onerosi, ma dati alla mano, e parlo dei dati trimestrali pubblicati da Banca d'Italia, il tasso effettivo medio di una cessione del quinto è addirittura inferiore a quello di un credito personale, è addirittura inferiore a quello di uno scoperto senza affidamento o di un credito revolving, e si avvicina a quello di un'apertura di credito in conto corrente. Quindi il tasso effettivo medio della cessione del quinto è, ripeto, assolutamente in linea con prodotti finanziari simili. Quindi insomma, se magari a qualche ascoltatore dovesse capitare di intercettare un'offerta che è un po' più onerosa, il suggerimento è quello di guardarsi in giro perché si trova qualcosa di più conveniente e allineato ai costi degli altri tipi di finanziamento. Io ringrazio Fabio Pieri di BL Grazie Banca per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Se ci fossero delle richieste di chiarimento da parte dei nostri ascoltatori, le chiederò un aiuto in privato, come farò poi anche con i nostri consulenti, come sempre, dell'Associazione dei Consumatori. Grazie, adesso io chiedo pazienza a Fabio Picciolini perché ho una bella raffica di domande per lui. Fra un po' avremo altri ospiti, ma nel frattempo vi racconto cosa sta succedendo oggi in borsa perché è aperta regolarmente. Cuore e denari. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. E al momento arrivano gli 80 euro in busta paga del governo Renzi e ho chiesto agli ascoltatori se dal cedolino dello stipendio di questo mese li hanno visti o meno. Ugo da Siena ci scrive: io ho un reddito di 27.000 euro l'anno, non mi sono toccati i famosi 80 euro, però devo dire che per controparte ho avuto 120 euro di TASI. Evidentemente, Ugo da Siena, siete già riusciti a calcolarla, perché sappiamo bene che molti comuni non sanno ancora che aliquota fissare, per cui c'è tutta la partita, come sapete, del rinvio della TASI tra settembre e ottobre, e quindi Ugo niente, un po' come si suol dire in termini non tanto finanziari, cornuto e mazziato. Fabio Picciolini, le chiedo un po' di conforto sugli argomenti di questa mattina. Stiamo parlando in realtà di famiglie che si indebitano, che lo fanno per tante ragioni, qualcuno lo fa anche per andare in vacanza. Vi segnalo sul sito del Sole 24 Ore questa mattina il video curato dalla collega Rosalba Reggio insieme ad Isabella Della Valle, che parlano proprio di indebitarsi per andare in vacanza. E devo dire che noi abbiamo messo questo video sul nostro profilo Facebook e molti ascoltatori commentano: ma ha senso fare la vacanza in questo modo, con un debito sul groppone? Quando si ritorna la vacanza l'hai anche fatta, ma rimane il debito da pagare. Picciolini, però forse adesso proprio indebitarsi per la vacanza non è più tanto di moda come qualche anno fa. Ma io non sono molto d'accordo, appunto, su indebitarsi per la vacanza piuttosto che per il fitness, piuttosto che per un'altra cosa. L'indebitamento non è cattivo in sé, se serve a fare qualcosa di utile. Diceva una volta, quando andava all'università, serve per soddisfare oggi un bisogno futuro. E quindi significa poter fare casa, la macchina, gli studi dei figli, qualsiasi cosa, ma cose importanti. Quindi personalmente credo che la vacanza si possa ridurre, si possa fare una vacanza a meno costi e via dicendo. Indebitarsi in questo modo mi sembrerebbe un po' non esagerato. Tanto responsabile, ecco, anche se si hanno le possibilità. Sul tema della palestra è un po' diverso, perché lì la questione è che purtroppo non ti concedono di dilazionare il pagamento se non sottoscrivendo un contratto di credito al consumo, per cui lì c'è tutta un'altra battaglia. Quindi o paghi tutto e subito 800, 1000 euro in un anno, oppure se vuoi appunto dilazionare purtroppo devi fare questo contratto. Lo dico perché io sono una di quelle che lo sta facendo. Come Picciolini? Si cambia palestra. Ma non lo fa nessuno, soprattutto se sono un po' strutturate, se no ti chiedono pure di essere pagate magari in maniere non tanto convenzionali. Salutiamo un suo collega Picciolini, Antonio Longo, che è anche un suo amico, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno anche a Fabio. E buon 2 giugno naturalmente a tutti. Grazie, quanti. Grazie. Avete diramato proprio la settimana scorsa, Longo, voi del Movimento Difesa del Cittadino, un'indagine sul credito. Donne, giovani e stranieri, i più indebitati in Italia. Ce la racconta? Sì, in realtà stanno emergendo forme di povertà, di indebitamento e di indebitamento le situazioni. Allora Longo, qua stamattina è festa, per cui evidentemente sta facendo festa anche il suo telefono. Adesso ripristiniamo il collegamento telefonico perché non era buono, evidentemente, come gli ascoltatori hanno avuto modo di percepire. Ne approfittiamo per sentire Pier Giorgio da Bergamo all'800 24 00 24. Pier Giorgio, buongiorno, ritorna sulla cessione del quinto lei? No, io parlavo in generale su, dicevo, i finanziamenti. Sì. Volevo fare una domanda specifica. Sì. Perché mi è capitato a me personalmente. Mm-hmm. Come mai nel momento stesso che uno chiede un finanziamento e per qualsiasi ragione questo finanziamento non viene erogato, perché viene segnalato il GRIF? È vero, e blocca praticamente per i cittadini, per le persone, la possibilità di chiedere finanziamenti ad altri enti, no? Perché c'è questa momentanea, sì per Giorgio è vero. Conosco... A me mi è capitato, come le dicevo, personalmente andando a comprare anni fa un PC portatile dove mi chiedevano faccia il finanziamento a rate zero. E per lì io volevo pagarlo tutto per intero, non mi interessava. Mi hanno convinto, tra virgolette, e dopo neanche 24 ore mi hanno detto guardi, purtroppo il finanziamento non può passare. Va benissimo, ho chiesto il perché e spiegazioni, mi hanno detto ma sa, noi a discrezione possiamo dire sì o no. Ok, ho comprato. Va bene. Anni dopo vado a comprare la casa, vado a comprare una casa e nel chiedere il mutuo il direttore della banca che conosco bene mi fa guarda hai una segnalazione in grifo. Risultava ancora addirittura dopo qualche anno Pier Giorgio perché da quello che so dovrebbe teoricamente annullarsi nel giro di poche settimane. Non le dico che casino che ho dovuto fare l'immagino. Per farla cancellare perché poi non davo giustificazioni che non avevo mai usufruito del infatti finanziamento è un problema. Fier Giorgio la ringrazio. Allora Picciolini, anche questa è una situazione che conosciamo, gliene do anche un'altra. Io ho una persona che mi ha chiesto aiuto qualche tempo fa, che aveva chiesto un piccolo finanziamento a più banche proprio per cercare di capire quale facesse l'offerta migliore. Contestualmente appunto queste qua mandavano avanti la pratica e naturalmente una delle tante ha detto no e questa, come dire, segnalazione risultava anche alle altre, alle quali contestualmente la persona faceva la richiesta, bloccando di fatto tutto quanto. Picciolini, ma com'è possibile questo? Allora, diciamo che il discorso della segnalazione, secondo me, almeno è un discorso positivo per il consumatore, per chi chiede un finanziamento. Peraltro si deve essere iscritti 30 giorni. Ecco, non anni, come diceva prima l'ascoltatore. No, ed è obbligatorio poi cancellare, quindi non capisco perché. C'è stato sicuramente un errore da parte o della banca o della stessa GRIF, ma normalmente la GRIF è un centro del dovrebbe essere la banca che ha sbagliato. Il discorso viene fatto perché purtroppo i malviventi in questo settore ce ne stanno molti. Per cui per questa procedura del cosiddetto credit shopping, cioè appunto cercare in tempi brevissimi di ottenere tanti finanziamenti da tante banche diverse, per cui appunto tutelare lo stesso consumatore e tutelare il consumatore vuol dire anche abbassare i tassi di interesse, perché non è che le banche poi si fanno carico delle perdite. Chiarissimo, allora anche se qua ogni tanto la conversazione un po' scompare con Picciolini, abbiamo capito che c'è il solito furbetto del quartierino che va facendo richieste a destra a manca, addirittura abbiamo appreso questa mattina che esiste il fenomeno del credit shopping, per cui per questo motivo, per tutelare tutti quanti, ecco che qua avvengono in automatico delle segnalazioni che poi bloccano automaticamente appunto delle richieste aggiuntive. Detto questo, per cui magari Picciolini, proprio per evitare che una persona si trovi, suo malgrado, in una situazione del genere, come può cautelarsi? Andare in banca e chiedere delle informazioni cercando di controllare che la banca non avvii la pratica formalmente? Può chiedere direttamente alla banca o direttamente alla CRIF la propria posizione. Entro 15 giorni sono obbligati a rispondere per vedere se ci sono segnalazioni o no. Se ci sono segnalazioni non dovute, quindi prestiti non accesi oppure rifiutati in passato, 30 giorni e si può ritornare a fare un'altra richiesta. Mi permetto una cosa, rispetto al signor Pier Giorgio, la banca si è comportata male perché la banca doveva mettere per iscritto le motivazioni perché non aveva firmato il finanziamento. Perfetto. Longo, ce la facciamo adesso? Mi faccia un po' sentire? Dica 3-4 parole in fila. Allora, che cosa indica la vostra rilevazione? Dicevamo, donne, giovani e stranieri, i più indebitati in Italia. Sì, la mappa poi corrisponde esattamente un po' anche alla mappa del disagio degli ultimi anni, cioè le persone che hanno perso il lavoro o hanno più difficoltà a trovarlo, quindi in Italia abbiamo una bassa occupazione femminile, abbiamo molte donne separate con figli che purtroppo magari non ricevono costantemente l'assegno da parte del marito, quindi sono nuove forme di povertà, i giovani che vogliono studiare o anche vogliono fare un viaggio trovano sempre maggiori difficoltà di reddito e quindi di autofinanziamento, gli stranieri spesso hanno avuto per anni contratti di lavoro che gli ha permesso loro di avere una vita tranquilla, anche loro sono stati tra le prime vittime della crisi. Ecco allora che la mappa dell'indebitamento vede donne, stranieri e giovani ai primi posti insieme con un'altra categoria, cioè le persone che hanno perso il lavoro. Certo, proprio in virtù di questa fotografia che avete scattato grazie all'indagine AZ Holding, voi invitate le persone che si trovano in difficoltà lungo a chiaramente frequentare i vostri sportelli, a venire a chiedere informazioni su come gestire situazioni problematiche e nei casi estremi applicare la legge numero 3 di 2 anni fa, la legge che nella sostanza contempla il cosiddetto piano del consumatore. Che cos'è? È una legge che permette il cosiddetto, chiamiamolo così, anche se è un termine brutto, fallimento familiare. Tradizionalmente, fino a qualche anno fa, appunto fino al 2012, erano solo le imprese che potevano fallire, e cioè affidare al giudice una decisione di ristrutturazione del loro debito pagando solo in parte gli obblighi a cui erano tenute per i debiti accumulati. Naturalmente a fronte di una situazione che permette di affrontare appunto questi pagamenti parziali e a fronte di una possibilità di continuazione. Ecco, questa legge del 2012 ha permesso di elaborare dei piani del consumatore per famiglie che per motivi gravi, perdita del posto di lavoro, la morte di un percettore del reddito, una grave malattia o altre situazioni di difficoltà non colpevole naturalmente, vogliono far fronte ai loro obblighi di debito, non possono pagare tutto il debito a cui sono tenuti, ma vogliono affrontare questo, diciamo, questo loro dovere. Ecco, il giudice può, accettate tutte queste condizioni, imporre ai creditori un abbattimento del loro debito a fronte di un pagamento di una parte di questi debiti, diciamo, come nuovo impegno del debitore. Quindi, è un'opportunità che ancora non ha trovato molta applicazione in Italia. Noi come Movimento Difesa del Cittadino abbiamo avuto i primi 2 piani di ristrutturazione del debito a Pistoia, diciamo, quindi invitiamo tutti a utilizzare questo strumento. Ecco, no, cioè noi diciamo che auspichiamo che non ce ne sia bisogno, perché significa che in famiglia si è verificato un caso grave tale da dover utilizzare questo strumento. Detto questo, se la morosità è incolpevole, è chiaro che è bene che si sappia che questi strumenti di aiuto in qualche modo ci sono, il debito si può abbattere, auspicando, ribadisco, che naturalmente le famiglie non ne abbiano bisogno. Noi andiamo a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio. Abbiamo ancora con noi Fabio Picciolini. Se Antonio Longo vuole rimanere ancora con noi, a noi fa piacere. Naturalmente per la terza volta riproviamo a sentire se la qualità del collegamento telefonico è migliore. A tra poco. Cuore e denari. Per una lira io vendo tutti i sogni miei. Eccoci ritornati, è bruttissimo, eccoci ritrovati a Cuore e Denari. Ancora buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani. Per chi chiede informazioni, Nicoletta torna domani e non ci sarò io, per cui ci stiamo passando per queste semigiornate di festa il testimone. Allora, la domanda che vi stiamo rivolgendo oggi è: per quale motivo vale la pena chiedere un prestito secondo voi? Per qualcuno, come dire, è una pura formalità, lo si affronta con grande, non dico con grande leggerezza, ma con tranquillità. Per qualcuno invece avere solamente una piccola rata da dover onorare ogni mese è un'onta insopportabile, ma qualche volta, insomma, al prestito siamo costretti perché ci possono essere delle circostanze nella vita per cui abbiamo bisogno di liquidità improvvisa. Per tante necessità continuate a chiamarci e a scriverci, chiamateci all'800 24 00 24, molti di voi lo stanno facendo, ma scriveteci anche al 349 238 6666. Un ascoltatore ci racconta che ha chiesto un finanziamento di 30.000 euro per ristrutturare casa, ne ha ricevuti 26.000, evidentemente finanziamento parametrato al reddito di tutta la famiglia, rate mensili da 406 euro, che non è poco, per 10 anni ha la possibilità di estinguerlo. Fabio Picciolini, ritorno da lei perché volevo segnalare un vostro evento di giovedì prossimo, di voi Consumer Forum, perché presentate il quinto rapporto sulle conciliazioni paritetiche e quest'anno c'è una novità, perché affronterete anche lo strumento delle azioni inibitorie. Prima mi chiedo però se la conciliazione paritetica effettuata anche con le banche e finanziarie può riguardare per esempio un prestito, che ne so, di cui un sottoscrittore non è soddisfatto nelle condizioni che vengono praticate dalla banca o dalla finanziaria. Certo, se le condizioni non sono in linea con quelle previste dalle norme, certamente sì. E diciamo che anche con la CRIF, ad esempio, con i sistemi di informazioni creditizi, perché non è solamente CRIF che esiste, se ci sono problematiche si può fare conciliazione anche con loro. Io la ringrazio molto, perché la conciliazione paritetica è una, diciamo, è una best practice europea che abbiamo solamente in Italia. Devo dire che Consumer Forum su questo è stato in prima linea, lo dico perché era presidente prima di me. È un fatto positivo, sta andando molto bene come strumento. Era Sergio Veroli, se non mi ricordo male. Esatto, era Sergio Veroli, che io saluto anche, non so se ci ascolta, come saluto Antonio Longo, chiaramente, che è un carissimo amico. E dicevo, stanno andando molto bene come conciliazioni, si stanno ampliando il numero delle imprese di qualsiasi tipo che appunto hanno accettato questo metodo per evitare il ricorso in tribunale. Questo è un metodo rapido, veloce, sostanzialmente gratuito, per cui il cliente e l'impresa trovano una soluzione attraverso due conciliatori professionisti, uno dell'associazione dei consumatori, uno della banca piuttosto che di un'altra impresa, per appunto magari non ottenere il 100%, però risolvere in tempi immediati. Quei tempi della giustizia italiana non mi sembra. Esatto, d'altronde una conciliazione è una mediazione. Esatto. Perché c'è questa novità dello strumento delle azioni inibitorie? Che cos'è? Di che cosa si tratta? Non è una novità, l'abbiamo ogni anno, cerchiamo di mettere qualcosa di nuovo in questo rapporto. Io è il secondo che faccio, e l'anno scorso abbiamo messo la mediazione, la metaconciliazione, che era una cosa nuova per l'Italia. Quest'anno abbiamo inserito le inibitorie, che sono quelle procedure in tribunale che consentono di evitare che vada avanti un comportamento scorretto da parte di un'impresa, per cui attraverso un'azione inibitoria si può far sospendere ad esempio una pubblicità ingannevole, tanto per citare la cosa più semplice, e quell'azienda sarà da un lato condannata, dall'altro lato non potrà reiterare nel futuro quel tipo di pubblicità. Chiarissimo. Adesso magari, qualora ci fosse qualche ascoltatore che ha qualche problema con una società del credito al consumo ed è insoddisfatta delle condizioni chieste per l'erogazione di questo prestito, cercheremo di capire come si fa a intraprendere appunto la strada della risoluzione stragiudiziale, chiamiamola così, naturalmente, quindi della conciliazione paritetica. Nel frattempo ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo e chiamando. Un ascoltatore dice: ho la cessione del quinto della pensione per un prestito. Ora ho anche un decreto ingiuntivo per un quinto della pensione. Che succede ora? È che metà pensione qua, Picciolini se ne va, ma possono convivere i due provvedimenti? Cioè il decreto ingiuntivo e dall'altra parte lui però sta versando un pezzo di pensione appunto per questa cessione del quinto. Purtroppo sì, fino a circa il 50% possono convivere. Purtroppo il signore, sicuramente per problemi di famiglia o di lavoro, non ha potuto onorare un finanziamento precedente o ha qualcuno che gli ha chiesto di pagare alcune cose, per cui è possibile che convivano le cose. Diciamo che laddove l'importo fosse troppo elevato, appunto solo il 50%, comunque uno si accoda all'altro come finanziamento. E seconda cosa, questo è molto importante, nella cessione del quinto della pensione comunque viene salvaguardato, è un porto, sono poche centinaia di euro, ma è importante anche questo, il cosiddetto minimo vitale. Cioè io non posso in sostanza cedere tutta la pensione, tutto il quinto della pensione, ma è tutto il quinto meno un minimo di sopravvivenza. A quanto ammonta questa percentuale? È noto per legge? Sotto i 500 euro. Non si può andare. Intanto ha suscitato grande curiosità l'aspetto che, grazie ad un ascoltatore, abbiamo toccato poco fa, e cioè si chiede un prestito, la banca dice no, parte una segnalazione e non appena noi andiamo in una seconda banca per fare la medesima richiesta perché la prima ci ha rifiutato, ecco qua che compare questa segnalazione, spesso a nostra insaputa, che ci impedisce di andare avanti appunto con altre richieste. E allora Fabio da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah. No, io volevo mettervi un po' al corrente quello che mi è successo. Sì. Io ho due finanziamenti di cui uno già chiuso, mm-hmm. e uno lo chiudo fra pochi mesi. Tre anni fa, dovendo liquidare la mia ex compagna, ho gioco forte saltato delle rate, certo. e concordato con loro con una finanziaria il post pagamento messi in coda, mentre con questa qua purtroppo ho avuto un po' il discorso con il recupero crediti di sistemare la questione. Mm-hmm. Però passato tre anni, ripreso a pagare regolarmente, su questa seconda finanziaria, che mi viene voglia anche di dire il nome, continuo, la Fiditalia continua ad avere la segnalazione. E la cosa mi dà fastidio, perché lei si è messo a posto, è stato un attimo in difficoltà, li aveva avvisate, Fabio ha fatto tutto quello che naturalmente una persona corretta fa, perché situazioni di difficoltà arrivano nella vita quando meno ce lo aspettiamo, per cui in qualche maniera tutti dobbiamo farci un po' responsabili e gestirle queste situazioni. Volevo chiedere a Antonio Longo se vuole intervenire su questo tema. Sì, purtroppo queste situazioni sono tante, vanno segnalate. Come associazioni consumatori possiamo dare un aiuto, perché abbiamo anche accordi con le società di registrazione, diciamo, dei crediti in qualche modo in sofferenza, le varie crisi, sì, per intenderci. Esatto. Mm-hmm. Si può ottenere la cancellazione a condizione che si rispettino determinati parametri di scadenze, pagamenti effettuati, eccetera. Quindi queste situazioni si possono affrontare e si possono superare. E però, insomma, Fabio deve attivarsi naturalmente, perché quello che indispettisce un po' è che la società Picciolini non lo faccia di sua spontanea iniziativa, come dovrebbe fare. Ma questo è un errore, perché le segnalazioni devono essere iscritte e cancellate tutte. Ecco. Io adesso non so qual è la situazione del mio omonimo, ma tanto per darle la regola, un mancato pagamento di massimo due rate si resta iscritti 12 mesi. Se uno ha regola l'indebitamento, al dodicesimo mese deve essere... Questo nome scompare dalla centrale rischi. Esatto. Benissimo, ci torniamo allora... Ribadiremo nella seconda parte del programma tutte queste regole, in modo tale che anche forti dell'informazione e le persone che si trovano loro malgrado in queste situazioni, appunto, possano andare a spiegarle alle società finanziarie che invece non ottemperano correttamente alla normativa. Chiedo pazienza a Cosimo da Bari, lo ripeschiamo subito dopo il giornale radio. Intanto continuate a chiamarci all'800 24 00 24, vi daremo anche qualche indicazione tra poco su come cercare di non trovarsi del tutto impreparati di fronte ad una situazione di difficoltà. A tra poco. Cuore e denari. Temi di tale e tanta attualità che entrano persino nelle canzoni, il tema del debito, come avete sentito, è il tema che stiamo affrontando oggi a Cuore e Denari. Mi rendo conto che può essere anche un tema un pochino pesante se affrontate una giornata di festa in cui magari volete staccare un po' il cervello dalle problematiche di tutti i giorni. In realtà noi abbiamo voluto farlo un po' in modo costruttivo, cercare di, analizzando i dati che ci circondano, ma cercando anche di darvi qualche indicazione su quando e come affrontare il momento di difficoltà. Indebitarsi non ha sempre e solo un'accezione negativa, ce l'ha quando magari un prestito viene sottoscritto superficialmente e non si ipotizzano anche delle situazioni in cui magari questo prestito non si riesce ad onorare. Sembra banale dirlo, ma quando un prestito diventa un debito che non riusciamo a sostenere, possiamo entrare in una situazione imprevedibile di grande difficoltà. Quando si fa questa scelta non sempre si pensa all'eventualità di non riuscire a pagare, o forse ci si pensa troppo poco. Cosa succede quando non si riesce a pagare? Ce lo chiediamo in quest'ultima parte di Cuore e Denari. Con noi c'è sempre il presidente di Consumers Forum, che è Fabio Picciolini, e poi fra un po' vi presento anche un altro ospite. Ma Picciolini, indicazioni di buon senso che però spesso vengono sottovalutate, non prese in considerazione dalle persone. Se non riusciamo a pagare un debito, la prima cosa da fare sarebbe quella di, invece che saltare nell'indifferenza generale il pagamento, magari avvisare o la banca o la finanziaria con la quale abbiamo contratto questo prestito e avvisarla appunto del fatto che probabilmente ci troveremo in un paio di mesi di difficoltà. La cosa più banale, dicevo, ma perché non si fa quasi mai invece questo? Ma perché si ha paura, si hanno paura dei rifiuti, c'è un po' di psicologia, diciamo così, negativa, ma ha detto giustamente lei, la prima cosa è parlare con la banca, con la finanziaria, in maniera tale che si veda se è possibile rinviare i pagamenti o comunque sospenderli o fare altre cose. Peraltro alcune forme di sospensione, ad esempio sui mutui, esistono. Esatto, la moratoria. Esatto. Alcune associazioni consumatori, le più importanti, hanno fatto un accordo con l'associazione bancaria e con l'associazione delle società finanziarie per trovare soluzioni. Aggiungo che nel tempo le cose stanno un attimo, in quanto con le ultime norme di trasparenza, che tra l'altro saranno migliorate, trasparenza bancaria, le banche sono obbligate a verificare il cosiddetto merito creditizio, ovvero quella cosa che Giorgio nella prima telefonata diceva, cioè stare attenti che uno possa pagare le rate. Se non lo fanno, ne rispondono e sono responsabili le banche, quindi qualcosa sta andando un po'. Non tantissimo, ma un po' meglio. Allora, intanto, diciamo, la prima indicazione che possiamo dare è: se siamo impossibilitati a rispettare questo impegno finanziario mensile, la prima cosa da fare è magari verificare se la società del credito al consumo o la banca hanno aderito a questi protocolli, per cui dovrebbero essere teoricamente un po' più sensibili nei confronti del nostro momento di difficoltà. Sentiamo per esempio se questa è la medesima indicazione che possiamo dare al nostro ascoltatore di Prato, Gerardo, che ci ha chiamato, è in una situazione un po' difficile. Gerardo, buongiorno. Buongiorno, Deborah. Sì. Io ho la mia compagna che è indebitata con una finanziaria. Sì. Questa qui in questo momento è impossibilitata proprio a pagare perché ha avuto un incidente domestico, gli è stata riconosciuta un'invalidità civile. Tant'è vero che gli hanno dato pure una minima di pensione. Io fin tanto che l'ho potuto aiutare, io gliel'ho pagato io il finanziamento. Però anche lei non ce la fa più. Ho perso il lavoro pure io. Quindi in questo momento è proprio impossibilità da pagare. Gerardo, la prima cosa che le chiedo, avete avvisato la società che non ce la fate? Sì. E che cosa vi hanno detto? Vi sono venuti un po'? L'abbiamo avvisata. Ci stanno tempestando di telefonate. Figuriamoci, ecco. Di SMS. Io volevo chiedere inoltre, siccome noi non siamo di quelle persone che abbiamo fatto il finanziamento e poi non l'abbiamo pagato, noi ne abbiamo pagato più del 70%. Vi è rimasto qualcosa indietro, Gerardo, e adesso non ce la fate. Allora, aspetti lì, Gerardo, intanto ci ascolti, perché stamattina non lo so che congiuntura c'è, quale telefonate sono tutte un po' difficoltose. Detto questo, la prima cosa, Picciolini, che mi viene da dire è che con queste circostanze straordinarie che purtroppo hanno riguardato la vita di Gerardo e della sua compagna, sicuramente un suggerimento potrebbe essere quello della famosa legge 3 che indicava prima Antonio Longo. Esatto, uno passaggio è proprio quello lì, cioè se una famiglia o un singolo non riesce a pagare il proprio indebitamento, può far fronte, può chiedere l'applicazione della legge 3 attraverso una proposta al giudice. Ecco. Devo dire che è stato bravissimo Antonio Longo, perché purtroppo ancora mancano alcuni decreti delegati per poter rendere generale questa partita. Il problema è, Picciolini, chi glielo dice a Gerardo e alla sua compagna che possono utilizzare questa opportunità? Perché qua mi pare di capire che ci sono a volte delle situazioni di marginalità irraggiungibili da tutti. Gerardo si è rivolto giustamente alla società finanziaria con la quale questo debito è stato contratto. Se non aiutano loro, se non sanno loro di questa opportunità, chi li può aiutare? Guarda, io non so quale sia la società finanziaria, diciamo che le maggiori, come dicevo prima, hanno fatto alcuni accordi e in questo caso specifico mi sembra di capire c'è addirittura un'invalidità, se ho ben compreso. Mi sembra strano che una società seria non vada incontro. Aggiungo che a questo punto qui, non io perché non faccio associazione di consumatori in questo caso, ma se rivolgesse a un'associazione di consumatori di Prato, se ho capito bene, sicuramente quantomeno lo assistono. Non che risolvano il caso, ma quantomeno lo assistono, perché ripeto, personalmente magari non fa un altro lavoro, non ha la capacità di rivolgersi. Appunto, come può essere anche per molte famiglie, esatto, che per pudore, per vergogna non vanno a chiedere aiuto, e questo è un tema appunto da tenere in considerazione. Gerardo, se vuole ci scriva a cuoredenari@radio24.it, magari cerchiamo di indirizzarle in maniera più precisa. Gerardo diceva anche: abbiamo avvisato, non ce la facciamo, abbiamo pagato più del 70% del nostro debito, e però continuano a telefonarci, continuano a tempestarci di SMS, e qua mi entra in gioco subito il prossimo ospite. Saluto e ringrazio Gianni Amprino, presidente di Unirec, che è l'Unione delle Società di Recupero Crediti. Buongiorno Amprino. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Vuole subito commentare il caso dell'ascoltatore? Nella parte che riguarda il recupero, adesso io non voglio assolutamente banalizzare il vostro lavoro, perché è molto strutturato. Voi gestite ogni anno milioni di pratiche di recupero crediti, per cui però ecco queste strategie ancora per andare a sollecitare il pagamento vengono utilizzate, Amprino? Ma guardi, noi come associazione raggruppiamo 200 imprese che sono circa l'85% del mercato, per cercare di, dal 2004 ci confrontiamo con le associazioni dei consumatori, abbiamo a luglio del 2013 fatto un'innovativa guida del consumatore, sì, nella quale sono evidenziate assolutamente tutte le regole che devono essere seguite dalle nostre imprese nell'approcciare la famiglia che è in difficoltà nel far fronte ai propri debiti. Ora abbiamo anche costituito un forum con alcune delle più importanti associazioni dei consumatori, sì, proprio per condividere questi codici comportamentali e monitorare proprio anche il rapporto che c'è tra i consumatori e le imprese di recupero, e anche, come diceva lei prima, educare sul tema dell'indebitamento. Ora non ho capito in questo caso dall'ascoltatore se si riferiva ad un'impresa di recupero oppure direttamente alla finanziaria. Però noi abbiamo delle regole precise. Beh, ma tanto anche se fosse la finanziaria ha all'interno una struttura di recupero. Poi si rispettano le regole fissate dai regolamenti sulla privacy e sull'antiriciclaggio. Dopodiché può darsi che nel nostro rapporto noi gestiamo più di 3 milioni di pratiche al mese. Nel 2013 abbiamo gestito 39 milioni di posizioni, quindi per 50 miliardi di crediti. Tra l'altro ci sta dando una notizia, non è che questo spaccato che lei ci sta offrendo in questo momento sia particolarmente attraente. Anche perché i numeri sono in crescita, purtroppo, i numeri di pratiche affidate, quindi di persone che non riescono a far fronte ai propri debiti, e purtroppo sono in calo invece i tassi di recupero, che sono un altro segnale sicuramente non positivo di questa situazione di crisi di liquidità e di fiducia. Senta Amprino, tanto per farci gli affari delle famiglie che non riescono a pagare, quali sono i prestiti che più difficilmente riescono ad essere onorati? Perché in realtà quando parliamo di recupero crediti dobbiamo ricordare che voi andate anche a tentare di recuperare per esempio le utenze telefoniche, le bollette della luce, non è che parliamo solamente di prestiti per appunto la liquidità, quelli per comprare l'auto nuova, no? C'è tutto un pacchetto molto ampio di attività di recupero, eh? Guardi, quei numeri che l'ho detto prima, quindi dei 50 miliardi o dei 39 milioni, il 60% grosso modo sono riferiti a debiti verso società finanziarie, quindi diciamo mutui, prestiti e carte di credito, ma un 35-37% sono bollette, quindi verso società di telecomunicazioni, di energia o di gas, e complessivamente l'80% di questi numeri è riferito a famiglie e il 20% a imprese, quindi diciamo che quando parliamo di questi numeri parliamo di rate di mutui, principalmente di prestiti personali, e poi, ahimè, e questo è un altro segnale, di bollette del telefono, bollette del gas, della luce, che stanno diventando, stanno crescendo. Certo. E insomma, qua è uno spaccato dell'Italia in difficoltà, che è ancora uno spaccato molto, molto largo. Magari poi torneremo ad analizzare questo argomento. Vorrei poi anche capire un po' di più come funziona l'attività di recupero, quali sono le tecniche, anche quelle di fronte alle quali non ci dobbiamo spaventare se riceviamo la telefonata, perché appunto qualche rata è rimasta un po' indietro, qualche bolletta è rimasta indietro. 800 24 00 24 è il numero verde per le chiamate dei nostri ascoltatori. Sono in linea Cosimo Davari, poverino che l'ho fatto aspettare mezz'ora. Adesso mi perdonerà Cosimo, eccoci a lei, buongiorno. ma no, ascoltarvi mezz'ora è un piacere, perché siete una trasmissione sia di servizio che di informazione, quindi grazie, più parlate meglio è. Bene, bene. Volevo soltanto fare un appunto sul quanto riguarda il CRISP. Il CRISP è vero che deve cancellare dopo un certo periodo la segnalazione, salvo che poi non debba, ma questo non sono molto informato perché non posso essere preciso, sono in macchina, salvo poi dover fare aggiornamenti software o aggiornamenti sul database, per cui tu puoi rimanere segnalato anche per 10 anni. Loro giustificano con questo quella segnalazione che dura tanto. La segnalazione al CRISP, devo dire, io ho una segnalazione da quasi 10 anni. Ah, che non riesce proprio a cancellare, cosa? No, guardi, ci ho rinunciato e non me ne frega niente. No, però mi scriva Cosimo, siccome con CRISP lavoriamo molto, adesso è da un po' che non sono ospiti del nostro programma, ma io li conosco molto bene, io vorrei andare a fondo adesso, a prescindere dal fatto che riusciamo meno a cancellare la sua posizione, però capire il motivo per cui ancora lei è lì, bello presente nella loro rete informativa, ci interessa. Sì, ma il CRISP mi ha fatto un favore. In che senso? Perché il CRISP nel segnalarmi mi ha costretto a non indebitarsi più niente. No! A non comprare più niente se io prima non ho i soldi in tasca. Ecco. E difatti, guardi, mi sono tanto abituato così, adesso le finanziarie per me possono chiudere. E in quanto al recupero crediti, loro, cioè, tu puoi anche fare una lettera alla finanziaria e dire: guarda che sono in difficoltà, sono per la strada, sono questo e quest'altro, magari rinegoziamo il credito o rinnoviamolo, fammi pagare un po' di meno, qualcosa del genere. Allora loro dicono di no a prescindere. Poi si vendono il credito e guadagnano molto di più di quanto avrebbero ecco dovuto qua. Scontarsi. Cosimo, qua lei ha aperto un altro spaccato che stamattina non abbiamo il tempo di affrontare. Farei una scissione in due delle sue osservazioni. Picciolini, beh, lui dice: sa com'è, io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Hai questa segnalazione? No, ho questa segnalazione, non me la volete cancellare? Bene. E io non vado a rimpinguare appunto l'attività del credito al consumo. Chi se ne frega, non spendo più. Qua. Che no, dice? Allora, diciamo che il signore resta iscritto se ha una posizione ancora aperta, altrimenti siccome faccio parte del organismo di controllo proprio di CRISP, è premesso che non è solamente CRISP, ma sono quattro questi sistemi, bisogna vedere anche dove è iscritto il signore. Se la posizione è stata chiusa, come dicevo prima, entro 12 mesi o entro 24 mesi, due rate o più di due sono 12 mesi o 24 mesi. Per il resto, io perché non può rimanere una situazione aperta, è vietato che resti una situazione aperta per codice della privacy, il codice deontologico di sistemi di informazione e i diritti rivolti. Non ho capito qual è la città. Bari. A Bari ci sono, credo, sostanzialmente tutte le associazioni di consumatori. Credo che sicuramente una soluzione la troverà, perché non è possibile per norma che resti aperta una posizione chiusa per 10 anni. È come dire che comunque in ogni caso questa segnalazione da qualche parte c'è, magari la cancella formalmente ufficialmente il CRISP, ma in ogni caso poi questa macchia scura nel passato creditizio di questa persona, come di tante altre, in qualche maniera poi viene fuori. Vi farei sentire anche l'osservazione di Angela, poi vado ad Amprino, abbiamo ancora 5 minuti di tempo. Angela, buongiorno, tocca un tema molto bello. Angela, lo so che io condivido pienamente, ma qua però che dobbiamo fare, qualche volta bisogna farli. Io se potessi cancellarmi il mutuo, Angela, sapesse come lo farei volentieri domattina. A chi lo dici? Complimenti innanzitutto, li sento sempre. Io grazie. Però volevo dire che a prescindere dal momento in cui ci troviamo, che ovviamente ha colpito anche me, purtroppo questa situazione io ce l'ho avuto per tutta la vita. Io ho iniziato a lavorare a 22 anni, sono andata in pensione a 60 due anni fa. Perché ce l'ho avuta tutta la vita? Perché avendo perso mio padre, che era giovane, purtroppo lui aveva 54 anni, e avendo avuto ed avendo una madre che ha 90 anni, estremamente egoista, che si è goduta la vita, viaggi, crociere, eccetera, non ci ha pensato minimamente ad aiutare né me, che ero quella più in difficoltà, né mia sorella, io ho dovuto fare sempre e comunque tutto da sola. Però c'è un però. Ce l'ho fatta sempre, ovviamente con enormi sacrifici e soprattutto con rinunce, perché credetemi, io parlo con tanta gente, io faccio anche attività politica adesso, come nel fatto di militanza tanta, eccetera. Ci sono persone che non ce la fanno perché non possono, ma ci sono persone che non ce la fanno perché pretendono di mantenere lo stesso tenore di vita, certo, Angelo. Che avevano prima. È una questione di educazione, come sei stato cresciuto, che cosa cosa hai attorno, qual è il tuo grado di tolleranza rispetto appunto alle difficoltà che ci possono essere, perché un stile di vita adeguato qualche volta è inaccettabile. Io, Angela, guardi, starei ascoltando, la starei ad ascoltare ancora a lungo. Le prometto che rifacciamo un'altra trasmissione su questi temi, peraltro che abbiamo toccato anche nel programma di venerdì scorso dal Festival dell'Economia di Trento. Parlavamo proprio di educare i piccoli alla gestione corretta del denaro, il che implica anche gli aspetti che Angela toccava. Però, Amprino, il recupero crediti, nel momento in cui uno è in difficoltà e arriva la telefonata della società che dice guarda, o saldi tutto oppure qua andiamo avanti in maniera che poi è un po' dolorosa. Ci dice come deve comportarsi correttamente un'agenzia di recupero credito in modo tale da non spaventare le persone? Ma guardi, l'agenzia di recupero crediti si deve comportare in un modo professionale, per intanto deve... Insomma, su questa guida del consumatore abbiamo specificato anche gli orari nei quali si può chiamare. Ecco, dove la troviamo la guida, tra l'altro, Amprino, in modo tale che se... sul nostro sito, che è www.unirec.it. Benissimo, la mettiamo su Facebook, così almeno... L'home page c'è e qui vengono fissati assolutamente gli orari, i tenori delle lettere e quindi se uno trova, diciamo, un comportamento... eticamente riprovevole, ecco. Può sicuramente segnalarlo a noi, per cui non ci deve essere nessun tipo di timore. Il consiglio che do è quello di cercare di confrontarsi serenamente, perché la cosa che noi abbiamo bisogno di capire, i nostri operatori hanno bisogno di capire, è qual è la reale situazione economica. Esatto. Dopodiché lì che cosa succede? Si intavolano delle trattative per dilazionare le restituzioni? Dopodiché noi agiamo ovviamente su mandato delle nostre committenti. Io posso dire che ci sono, al di là degli accordi che sono stati fatti con l'ABI o quant'altro, parecchie società finanziarie e banche hanno messo a punto degli strumenti di rinegoziazione del finanziamento, di riduzione delle rate, di accodamenti, di rimodulazioni del credito, per cui noi a seconda della committente offriamo a questa persona questo tipo di possibilità, dopo aver capito se la sua difficoltà è cronica o momentanea. E più banche, più finanziarie seguono queste vie, più noi abbiamo degli strumenti da proporre alle persone che in difficoltà. Però proprio il consiglio è quello di non chiudere il telefono, di non sbattere il telefono in faccia alla società, e poi di insomma coerentemente con gli strumenti che ci vengono dati cerchiamo. Benissimo. Andremo a mettere sul nostro profilo Facebook, Amprino, questa guida realizzata con la collaborazione dell'Associazione dei Consumatori. Intanto io la ringrazio, il presidente di Unirec, che è l'associazione confindustriale di categoria delle imprese dei servizi a tutela del credito. Buon lavoro. Io mi auguro da una parte lavoro. Per voi che ce ne sia tanto, ma per noi che ce ne sia meno. Non so veramente che cosa dire. Grazie anche a Fabio Picciolini per essere stato con noi per tutta l'ora e mezza. Adesso veramente buona vacanza, Picciolini. Grazie. A presto, grazie. Grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza tecnica, Marco Lombardo che anche oggi è con me, domani c'è Nicoletta Carbone, vi auguro un buon 2 giugno.